L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, oggi in diretta con la nostra puntata live dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Siamo al bar Bella Vista, Hotel Bruffani. Siamo qui per raccontare l'Europa con il nostro programma, che come ogni sabato va un po' alla scoperta di quelle che sono le altre Europe, gli altri punti di vista, altre sfumature per raccontare la nostra Unione, un programma in collaborazione con Euronet, un network di radio europee che cerca appunto di dare voce a quella che è la politica, l'attualità, quella che è la cultura della nostra Europa. Siamo in diretta oggi, una finestra su quello che sta accadendo al festival, quindi tante voci, anche tanti ospiti con me, i ragazzi del liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia. Voi siete i ragazzi della redazione della Siringa, che è un po' il giornale dell'istituto. Chiacchiereremo con loro perché comunque hanno affrontato e stanno affrontando il tema Europa, anche perché Perugia è candidata ad essere capitale culturale dell'Europa nel 2019, quindi insomma andremo alla scoperta anche di questo, lo faremo con loro. Gli ospiti con me al tavolo, diamo il benvenuto a Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Lucio, ben ciao, ritrovato. Federico. Poi Lee Marshall, giornalista inglese che vive in Umbria, appassionato di cinema, appassionato di local, appassionato dell'Italia, che ama poi raccontare soprattutto ai lettori inglesi. Ciao Lin. Ciao Federico. Da quant'è che vivi in Italia? Sono ormai quasi 30 anni. Tanti anni a Roma, adesso da 4 anni a Città della Pieve, in Umbria. Adesso lo so che non è molto professionale come la domanda, non ci conosciamo, ma te la faccio ugualmente, ma ti sei spostato per lavoro, per amore, per la cucina italiana, per caso? Per amore, però con un inglese, siamo arrivati insieme in Italia, quindi diciamo la scelta dell'Italia non era una scelta, diciamo, romantica in questo senso, ma una scelta forse romantica in un altro senso, cioè mm-hmm. Avevo bisogno di fuggire dal grigiore inglese e trovare, forse è una cosa anche un po' stereotipico, però a volte questi stereotipi sono anche veri, dunque un po' di buon cibo, un po' di sole, un po' di aiutano. Poi ho scoperto anche tutte le altre cose, sia positive che negative, dell'Italia. Ci piace parlare di mobilità e anche questa è mobilità, poi andremo a capire come unire il macro, cioè il racconto dell'Europa, dell'Unione, e il micro, che è quello che fai tu, quindi raccontare anche le realtà locali. E poi c'è Natascia Fioretti, che è responsabile della sezione italiana dell'Osservatorio Europeo del Giornalismo. Ciao Natascia, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Andremo a scoprire anche con te che cos'è questo osservatorio e il bel lavoro che fate soprattutto su donne e media, che è anche il titolo del panel a cui parteciperai oggi qui a Perugia alle 14. Lucio, partiamo da te, sei l'istituzione. È faticoso essere definito un'istituzione, perché forse è proprio la parola istituzione che rende molto fredda quella che è l'Europa, quella che è la comunicazione dell'Europa, di cui oggi parleremo molto. È l'anno europeo dei cittadini, lo stiamo dicendo settimanalmente, stiamo seguendo tutte le attività, c'è proprio un bisogno di rendere più calda, più vicina, più viva, più comprensibile questa Europa. Beh certo, oggi è più difficile sentirsi istituzione, essere istituzione rispetto a 15 anni fa, è per questo che noi cerchiamo, diciamo, come rappresentanza della Commissione Europea, di stare più sul territorio, più vicini alle persone, ai cittadini, ai giovani, nella misura del possibile, meno paludati, insomma, ecco, la comunicazione deve diventare sicuramente meno paludata. Citavi l'anno europeo del cittadino. È in atto una trasformazione anche nel modo delle istituzioni europee di comunicarsi. Siamo passati dall'informazione, poi alla comunicazione, adesso siamo all'ascolto. Ce n'è bisogno. Credo che in un momento di crisi come questo, in cui è un po' in crisi il modello occidentale di sviluppo, è in crisi l'Europa con le sue istituzioni e anche con la sua industria, tutto un po' il concetto d'Europa traballa un pochino, diciamo, ecco, bene, allora forse credo che sia venuto il momento veramente di ascoltare, e ci sono iniziative, tu lo sai bene perché in qualche modo è stato compartecipe, iniziative delle istituzioni europee per ascoltare i cittadini. Cioè, se noi vogliamo una nuova Europa, dobbiamo sapere che Europa vogliamo e come la vogliono i cittadini. È inutile che diciamo che le istituzioni decidano, vi do un modello d'Europa, no, dobbiamo sentire i cittadini cosa desiderano, cercare di capirlo bene, mediare, perché mediare è sempre necessario, e andare verso un progetto condiviso. Solo così possiamo fare della strada assieme, altrimenti ci fermiamo. Con Lucio torneremo a parlare del come comunicare l'Europa fra pochissimo, prima invece volevo appunto cogliere l'occasione degli ospiti qui al tavolo per parlare dei loro argomenti specifici. Natasha, Osservatorio Europeo di Giornalismo, che cos'è e cosa fate? L'Osservatorio Europeo di Giornalismo è un centro studi no profit che è nato all'Università della Svizzera Italiana nella Facoltà di Scienze della Comunicazione nel 2004 ed è un centro che si occupa di studiare e di osservare i trend del giornalismo e dei media a livello europeo e anche a livello internazionale attraverso ricerche comparative, e attraverso, noi abbiamo una piattaforma, un sito web in 10 lingue dove appunto scriviamo di media e giornalismo quotidianamente. E il bello è non solo essere un sito, una piattaforma in 10 lingue, ma anche essere un vero e proprio network di partner istituzionali europei, perché ad oggi l'osservatorio conta 13 partner europei internazionali, europei, tra questi abbiamo il Reuters Institute e per esempio la School of Journalism della University of Oregon, quindi insomma siamo molto contenti di questo, riusciamo veramente, come dire, ad avere un panorama molto ampio e molto variegato. E parlando anche di Europa, quello che è molto interessante nel lavoro che facciamo noi è quello di mettere a confronto le diverse mentalità e culture giornalistiche che abbiamo, perché quando si parla di media e di giornalismo poi sappiamo bene che ogni paese ha le sue specificità, le sue caratteristiche, ed è molto interessante osservare questo sia da un punto di vista della ricerca sia anche proprio da un punto di vista dell'osservazione. E quello che noi vogliamo fare è anche proprio costruire dei ponti fra quello che è, visto che noi siamo nati e nasciamo in un'università, in un contesto accademico, quindi è quello di costruire ponti fra il mondo accademico e il mondo professionale, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo oggi di grandi cambiamenti e di evoluzione tecnologica, per cui, come dire, anche la ricerca e la sperimentazione sono sempre più importanti, e dunque avere un occhio di riguardo a questo credo che oggi possa essere un, come dire, un valore aggiunto e possa contribuire in un qualche modo allo sviluppo per il futuro. Tu oggi parlerai di donne nei media, qual è il problema? Quindi c'è un problema e tentate anche di dare delle soluzioni. Qual è il problema? Ed è un problema solo italiano o appunto è un problema europeo? Questa è la prima cosa interessante che sappiamo, come dire, che è un problema europeo, ma è un problema anche internazionale. L'abbiamo visto già con degli ospiti che ci sono stati in questi giorni al festival, che hanno già, come dire, approcciato la tematica. È un problema, come dire, sicuramente culturale innanzitutto, ma è un problema che poi di riflesso si rispecchia anche nel mondo dei media, come i media ne parlano, come i media diffondono una certa immagine della donna, come i media usano un certo linguaggio, una certa immagine ogni volta per parlare anche di, come dire, donne in politica, donne in carriera, piuttosto che quando si tratta invece di donne vittime di violenza, eccetera. Quindi soprattutto anche nell'era dell'informazione digitale è molto interessante dare un occhio a questo, perché noi vediamo anche come ci sia uno sviluppo su queste tematiche, per esempio a partire dai blog oppure a partire da vere e proprie comunità di interesse che in rete si vengono a creare. Per esempio possiamo vedere il Guardian ha una vera e propria sezione dedicata alle questioni femminili, di genere, femminismo eccetera, e ha una woman editor che è la Jane Martinson del Guardian appunto, ed è una cosa molto interessante che per esempio altri quotidiani potrebbero riprendere. Eccoci qua ancora in diretta dal Festival del Giornalismo di Perugia, stiamo parlando con Natasha Fioretti, Donne e Media, un problema internazionale. E, Natasha, prima di salutarci, sai come sono i giornalisti, poi amano le classifiche, amano le differenze tra le varie nazioni, c'è una nazione che spicca come eccellenza, secondo te, in questo rispetto? Hai fatto l'esempio del The Guardian, ma ci sono altre... appunto esempi virtuosi. Ma da citare? A livello mediatico, in senso virtuoso, non mi sento di citare un paese in particolare, perché le problematiche che riscontriamo nel mondo dei media sono veramente trasversali e dunque in questo senso non mi sento di dirlo. Sicuramente a livello culturale, a livello anche di società, eccetera, i paesi del nord Europa, lo vediamo anche dalle classifiche che vengono stilate dal World Economic Forum, per esempio, piuttosto che fanno sicuramente molto meglio di noi, anche per quanto riguarda appunto la professione, per esempio il fatto che il congedo non sia soltanto congedo maternità, ma anche congedo, come dire, per i papà che possono prendersi sei mesi. Ci sono tutte delle, come dire, c'è una cultura diversa, dunque sicuramente in questo senso i paesi del nord Europa sono avanti e noi abbiamo molto da imparare. Grazie allora Natasha, l'appuntamento oggi alle 14, sala del dottorato, appunto il titolo Donne nei media, qual è il problema e come risolverlo. Grazie davvero. Invece andiamo a capire appunto in questo discorso l'Europa, l'Unione, le tante nazioni, il 28 paesi, e poi c'è il micro, c'è il locale, c'è la quotidianità, che è bella raccontarla perché alla fine è quello che fa cultura. Lee Marshall, giornalista inglese, vive in Umbria, tu hai fatto proprio del racconto del viaggio, del racconto del piccolo, del micro, del viaggiare anche lento, del viaggiare sostenibile, una delle tue caratteristiche. E in questo micro raccogli sfumature d'Europa, è un modo per raccontare l'Europa, secondo te, il lavoro che fai? Esattamente, sì. Io lo vedo come molto importante questa, perché mi occupo di viaggi e turismo come soprattutto dall'Italia, quindi racconto l'Italia andando in giro dalla Sicilia al Piemonte e cercando di captare un po' quello che è lo spirito del luogo, cioè contrastando quella massificazione del turismo che secondo me non aiuta a capire un paese tipo se è giovedì allora deve essere Roma, venerdì siamo a Parigi, cioè è una cosa. Io cerco di, ho sempre cercato di contrastare questa cosa cercando di farmi raccontare per esempio dagli abitanti del luogo, quando arrivo in un posto che non conoscevo prima. Faccio un po' come facevano quei viaggiatori nel Settecento che giravano con lettere di raccomandazione ai nobili del posto, cioè due o tre persone che ho prefissato degli appuntamenti, vado a, e non solo il sindaco, ma gente normale, diciamo, cerco di farmi raccontare com'è vivere qua, com'è il, che problemi ci sono, che sono le bellezze del luogo, anche per gli abitanti, che non sono le stesse cose delle bellezze del luogo per le guide turistiche, diciamo. E il fatto di essere straniero aiuta? Forse un po' sì, perché sono meno, sono diciamo uno che ha meno bagaglio culturale in quel paese, quindi forse non lo so, un torinese che arriva in Sicilia, ci sono certi preconcetti, per esempio, forse anche un inglese che arriva in Sicilia, perché c'è una storia anche lì, da Nelson in poi, però sì, forse aiuta un po', un po'. Lì un'ultima domanda che credo sia alla fine forse anche un po' l'attenzione, la sensibilità che bisogna avere e la suggestione che vorrei passare a che ci sono qui al festival. Parliamo di cultura europea. Nel momento in cui vai a raccontare il micro, forse l'attenzione è proprio quella di tentare di andare oltre lo stereotipo, anche tu prima l'hai citato, perché il rischio è sempre di cadere lì, nel cliché, nel già sentito, nell'andare a ribadire cose prefissate. E questo è il contrario del fare una cultura comunitaria. Infatti, sì. Io un tempo fa ho un blog che scrivo sul settimanale internazionale, ho fatto un post chiamato Turisti non per caso, dove ho fatto un decalogo un po' ironico, provocatorio, di cose, di diciamo regole per un turismo contro, e una di queste regole era visitare in Italia solo delle località composte da tre lettere o meno, quindi ne, bra, ro, cioè è un modo per Sembra stupido, però se uno va in Inghilterra e va in un posto solo scelto totalmente a caso, mettendo sulla carta, sai, la classica un punto sulla carta geografica, questa è una cosa interessante, perché non l'hai scelto perché è Londra e vai alla National Gallery piuttosto che... vai probabilmente in un posto vero con... Quindi questo secondo me sì, aiuta molto a capire l'Europa, questa remare un po' contro a questo turismo di massa. Grazie davvero Ali Marsal, ricordiamo il tuo appuntamento oggi invece alle 11.30, quindi subito dopo il programma Raccontami l'Europa, che è questo quarto premio giornalistico internazionale, scusa, Raccontami l'Umbria, ho fatto un'associazione esagerata. Dal macro al micro. Sì, esatto. Raccontami l'Umbria, grazie davvero, ricordiamo il blog su Internazionale che è sempre molto puntuale. Facciamo un cambio al tavolo di ospite, intanto vado dai ragazzi del liceo scientifico Alessi di Perugia, recupero il microfono, ciao. Vedo che ti sei preparato gli appunti, quindi vuol dire che sei preparato. Aspetta che facciamo un passaggio qui che ci stiamo un po' annodando. Raccontami intanto velocissimamente con la vostra redazione cosa fate. La Siringa è un giornale scolastico nato 50 anni fa, sì? Praticamente diciamo si cerca di affrontare sia i problemi inerenti alla scuola, ma anche da un punto di vista più dei giovani e della società vista da un occhio appunto di adolescenti e di futuri uomini e donne. Diciamo che fondamentalmente si affrontano quasi ogni genere di argomenti, spaziando sia dagli interessi personali, quindi musica, film, arte, sia a argomenti politici, argomenti appunto europei. Insomma, quella che è un po' l'attualità, quelli che sono i vostri interessi. Tu invece sei? Claudia. Claudia. Avete sfiorato anche il tema Europa proprio in chiave della candidatura di Perugia Assisi a capitale della cultura europea, giusto? Beh, comunque come redazione abbiamo partecipato alla redazione appunto del giornalino, uh-huh. E sono stati mandati alcuni articoli, abbiamo diciamo portato le nostre esperienze, per esempio la nostra caporedattrice ha scritto un articolo su Saremo al Centro, che è un concorso musicale che facciamo qui a Ponte San Giovanni, uh-huh. E quindi portare un po' quelle che sono anche lì appunto le esperienze culturali. Siccome abbiamo l'istituzione europea qui adesso, vi faccio un domandone non preparato, quindi potete mettere via gli appunti. Cioè, alla parola Europa voi, cioè, qual è la prima cosa che vi viene da pensare? Certo, pensando all'Europa noi la vediamo anche forse come il futuro, cioè soprattutto in questo periodo credo che i giovani si stanno accorgendo che rimanere chiusi dentro il proprio stato può non sempre portare alla risoluzione dei propri sogni, dei propri progetti, quindi ci sono sia delle paure nello spostarsi, nel trovare un'interculturalità, sia però delle speranze, e questo porta i suoi problemi e i suoi difetti. Mm-hmm. Quindi per te l'Europa è questo, comunque è futuro, è opportunità, è possibilità, ci sono le difficoltà, però è questo. Per te invece? Non so, io quando penso a Europa mi viene voglia di viaggiare. Ok, beh, insomma già ci piace. Lucio, è anche questa l'Europa? Beh, bello, mi sembra, mi fa piacere che dicano futuro, opportunità, viaggiare, credo che sia una cosa bella. In effetti l'Europa è anche conoscenza. Io credo che quello che diceva prima il nostro amico, il giornalista britannico che sta in Italia da 30 anni, sia quello che manca oggi un pochino. Cioè noi dobbiamo, siamo 27 soci e dal primo luglio saremo 28 e ci conosciamo ancora troppo poco, cioè facciamo parte di una specie di unità, passatemi questa espressione, dove siamo in molti ma ci conosciamo ancora troppo poco, e dobbiamo imparare a conoscerci di più viaggiando, ma anche studiando, cioè conoscendo un po' la Croazia, ad esempio, che sapete voi della Croazia, o che so io, abbastanza poco. Bene, è un paese vicino a noi, credo dovremmo imparare a conoscerne un po' la storia, la società, l'economia, e così dico anche degli altri, perché in questo momento di crisi europea stanno tornando alla luce questi vecchi pregiudizi, i tedeschi sono così, i francesi, se ci conoscessimo un po' di più forse riusciremo a superarli. E poi c'è questo discorso dell'opportunità, che è veramente forse uno dei nodi, perché l'Europa viene sempre percepita poi come un problema, come regolamenti, come burocrazia, e viene dimenticata tutte quelle che sono le possibilità. E ci sono cose alte, quindi quelle che riguardano direttamente i governi e macro scelte, però poi ci sono cose molto legate alla quotidianità, opportunità concrete di esperienza, di avere fondi, di mettersi in gioco. E anche lì ci risiamo, è un problema di comunicazione se queste cose non arrivano, non vengono percepite? Beh, cioè, pensiamo a Eures, no? Io è una cosa in cui credo molto, c'è un portale che si chiama Eures che ancora secondo me troppo pochi conoscono, e dove ci sono circa 1.500.000 offerte di lavoro tuttora vacanti. Questo che cos'è? Dovrebbe essere, dico, la borsa del lavoro in Europa, cioè raccogliere tutte le offerte di lavoro che ci sono nei 27 stati membri del nostro club Europa, messe da circa 35.000 imprese, e dovrebbe essere il modo in cui si incontrano. Dice: io sono qui a Perugia e vorrei fare, che ne so, il pasticcere, adesso mi viene in mente il pasticcere perché ho appena fatto colazione, dice, vorrei fare il pasticcere, e c'è qualcuno a Helsinki che cerca un pasticcere italiano, e questo portale ti dà non solo l'opportunità di far sì che si incontrino domanda e offerta, ma ti spiega anche come funziona in Finlandia, cioè che tipo di garanzia avrai del lavoro, che tipo di contratto avrai, se riesci a trovare facilmente una casa. Ebbene, questo potrebbe essere veramente un bacino di opportunità grande per tutti. Io in questo ci credo, e su questo le istituzioni europee stanno lavorando moltissimo. Anche ieri la Commissione europea ha presentato un miglioramento della direttiva, stiamo andando verso questo. Lo so che non è la soluzione al problema del 35% di disoccupati, però mettiamo dei mattoncini per costruire il futuro. Lavoro, c'è ancora posto per i giovani, è il titolo del panel organizzato oggi pomeriggio alle 15, al quale parteciperà anche Lucio Battistotti, che ringrazio per essere stato con noi. Fra pochissimo Raffaella De Marte, Andrea Maresi, parleremo di comunicazione istituzionale, ma non solo. Prima la pubblicità, poi ancora qua in diretta dal Festival Internazionale del Giornalismo. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ancora l'altra Europa, sempre in diretta dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. E con me ora al tavolo Raffaella De Marte, ben ritrovata Raffaella, amica dell'altra Europa, detta stampa e social media manager del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Ciao Raffaella. Ciao Federico. E Andrea Maresi, responsabile invece delle relazioni con i media del Parlamento Europeo per l'Italia. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Aspetta che ti alzo un po' il microfono, che eccoci qua. Andrea, partiamo da te, perché voi anche rappresentate un po' quella che è l'interfaccia tra queste istituzioni, tra il palazzo, tra il cuore dell'Europa e gli altri giornalisti in parte, ma poi quella che è la comunicazione a largo raggio, quindi i cittadini, noi in ultimo. E tu Andrea hai appena pubblicato un libro intitolato Comunicare l'Europa, il sottotitolo che appunto potremmo utilizzare, visto quello di cui stiamo parlando oggi, è sfida impossibile o sfida possibile? Si può oggi comunicare l'Europa? Qual è il tentativo che state facendo e quali sono anche i risultati che avete raggiunto e che tu hai raccontato? Diciamo che sì, il sottotitolo è anche sfide e opportunità, quello che si può ancora fare, si può ancora migliorare. Penso che rispetto agli anni passati si è fatto molto, c'è più spazio d'Europa per l'Europa in Italia, sicuramente magari grazie a questa crisi che ha dato più spazio all'Europa, e quindi ai problemi che possono essere affrontati a 27 piuttosto che da un singolo stato membro, però è chiaro che c'è ancora molto da fare. In particolare in questo libro si dà parola agli addetti ai lavori, quindi non solo gente che lavora istituzionalmente con la comunicazione, ma anche con i giornalisti a 360 gradi, quindi è uno strumento che è diretto ai ragazzi che studiano scienza della comunicazione o giornalismo, per avere insomma un contatto concreto con la realtà e con quello che sono i problemi della comunicazione. E penso che oggi, pur se ci sono stati molti miglioramenti, ancora c'è molto da spiegare, c'è molto da raccontare sull'Europa, che è troppo lontana secondo me. Andrea, adesso cioè, al di là del libro, la tua esperienza personale, perché tu fai questo di lavoro, cioè cerchi di comunicare l'Europa, qual è la difficoltà con la quale ti scontri ogni giorno? Ma la difficoltà, diciamo, io ho passato 15 anni a Bruxelles, quindi era proprio veramente l'istituzione, la comunicazione istituzionale un po' lontana magari dal centro, dalla periferia, scusa, e quindi adesso da un anno e mezzo sono a Roma con questo ruolo di relazione con i media italiani per il Parlamento europeo e vedo quali sono i problemi concreti sul campo. I problemi sono lo spazio che viene dato a questo tipo di comunicazione. Il fatto che se non parli di politica nazionale, che di fatto è proprio politica europea, la politica europea non è più politica estera ma è politica interna, ma questo passaggio non è ancora capito dai mezzi di informazione, quindi chi parla d'Europa come te per esempio dovrebbe avere molto più spazio e purtroppo c'è poco spazio e quindi i cittadini di fatto soffrono di questo tipo di mancanza. Raffaella De Marte, tu lavori al fianco di Schulz, questa è la tua occupazione attuale, com'è? È divertente? Molto. Cioè, non so, adesso magari forse divertente non sarebbe stata la prima parola che tu avresti utilizzato alla domanda com'è lavorare, no, nel senso che è faticoso, impegnativo, però in questa classifica di possibili aggettivi ci sta anche divertente. Assolutamente. Oh, okay. No, ma perché il personaggio è molto divertente, nonostante appaia sempre un po' imbronciato per dare l'immagine del politico serio, poi appena chiude la diretta è un simpaticone. Faremo anche una puntata dedicata all'altro Schulz, prima o poi. E tu in particolare lavori anche sui social media, vuol dire che comunichi Schulz in formato Twitter? Sì, fra le altre mille cose anche in formato Twitter. Ovviamente ogni, diciamo, mezzo di comunicazione ha il suo linguaggio, per cui bisogna adattarsi ai diversi format con diverse maniere di... Tu sei stata coordinatrice prima dei social network del Parlamento europeo, hai partecipato alla nascita e allo sviluppo della pagina Facebook e qui ci risiamo, che è la domanda anche che avete affrontato in un panel ieri, quanto internet, quanto i social media possono aiutare a comunicare meglio, più velocemente, in maniera più informale, questo ce lo dovrai dire tu, l'Europa? Ma per noi è stata una cosa fondamentale, infatti il Parlamento continua a crescere e puntare un sacco sulle reti sociali, perché i due motivi principali sono quello che citava Andrea, cioè diciamo la mancanza o lo spazio ridotto sui media nazionali di una comunicazione, di un discorso sull'Europa, questa famosa sfera pubblica europea che non emerge e che invece internet dà la possibilità, insomma, di scavalcare un po' i media tradizionali e parlare direttamente ai cittadini, e dall'altro lato anche di creare un dibattito non solo nazionale sulle questioni europee, cioè che persone di diversi paesi e diverse culture possano confrontarsi su quelli che sono i problemi comuni, quindi di filtrare questo prisma nazionale con cui di solito vengono lette le notizie sull'Europa, per cui è stato fondamentale, costituirà sicuramente uno degli strumenti principali per la campagna europea delle elezioni 2014 per cui il Parlamento sta scaldando i motori, speriamo che sia una campagna più appassionata delle precedenti, e dovrebbe essere così perché si prevede che, insomma, le grandi famiglie politiche, i grandi partiti europei presentino un proprio candidato al governo della nuova Unione Europea, per cui alla Commissione Europea, e quindi dovrebbe essere un po' più personale, un po' più politica. Raffaella, un'ultima domanda, i social network funzionano se c'è interazione, riuscite a favorire questa interazione tra l'istituzione, tra il palazzo e i cittadini? E nel caso è interazione vera? Sì, per esempio, cioè, ovviamente non è facile, la pagina Facebook del Parlamento oggi ha 760.000 fan, per cui chiaramente non è che riesci a dialogare con tutti, però per esempio organizziamo regolarmente delle chat con i deputati europei per permettere questo dialogo, oppure dei concorsi in cui un gruppo di ragazzi scelti dalla pagina Facebook vengono, incontrano i deputati, fanno i loro reportage, per cui cerchiamo di favorirla. Chiaramente poi il problema grosso di come filtrare questa massa di migliaia e migliaia di commenti per ogni post rimane, però ci proviamo. Hai mai postato un tweet sbagliato su Schulz? No, magari privato. Guarda, l'altro giorno ho postato un commento sulla disperata situazione italiana dal tweet di Schulz invece che dal mio personale. Capita. Grazie davvero a Raffaella De Marte e Andrea Maresi. Ricordiamo ancora il titolo del libro, Andrea, e anche il coautore. Allora, beh, comunicare l'Europa in Italia, sfide e opportunità, coautore con Lucia D'Ambrosi. Di fatto è comunque un ricopilatorio, insomma, di diverse esperienze. C'è anche Raffaella che ha scritto un capitolo. Ci dovevi essere anche te, tra l'altro. Quindi sono arrivato un po' tardi. Lavori troppo. È una mia costante. E quindi, insomma, è un po' toccare con mano di fatto le problematiche della comunicazione, che sono da una parte sì, sfide giornalistiche, ma anche poi comunicazione e interazione con i cittadini. Libro che verrà presentato oggi alle 15.30 Centro Servizi Alessi. Grazie davvero Andrea, grazie a Raffaella. Cambio al tavolo e, visto che parliamo di spazi sulle testate nazionali, e con noi c'è una persona che invece l'Europa la racconta bene, racconta il palazzo, ma poi racconta anche la strada, perché le piace andare a caccia di storie, di odori, di sapori di questa Europa. Diamo il benvenuto a Tonia Mastrobuoni. Ciao Tonia. Buongiorno. La crisi ha fatto bene all'Europa? C'è stata un po' un'operazione di marketing sul come raccontare l'Europa o no? Ma direi che non di no, nel senso, a conferma di quello che diceva Raffaele, volevo dire una piccola cosa su Schulz. Sì. Secondo me Schulz è per esempio una delle poche persone in Europa che ha cercato di restituire un orgoglio a un'istituzione come il Parlamento Europeo, che è uscita rinnovata dall'ultima grande riforma. Ricordiamo che lui ha fatto una grande battaglia sulle donne nella BCE, ha fatto una battaglia sul bilancio europeo, quindi è vero che ci sono personalità come lui che cercano di anche questo è un modo per fare politica attiva, no? In qualche modo anche dirompente, è un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini, questo volevo dire. Per quanto riguarda la comunicazione secondo me sull'Europa è debolissima, non per colpa loro, ma semplicemente perché in questo momento c'è un ritorno al nazionale piuttosto devastante, lo vedi ovunque. Io ho fatto un lungo reportage, non per la stampa ma per una rivista che si chiama Studio, in una località dove ci fu un grande eccidio nazista in Grecia, e lì mi sono resa conto per esempio che c'è un ritorno, cioè adesso i greci scoprono di aver avuto, non so, uno zio, un nonno ammazzato dai nazisti, no? Dopo 60 anni di oblio. Quindi questa è una cosa che mi preoccupa molto e che ho visto un po' ovunque. Anche in Germania c'è una chiusura crescente verso l'esterno, c'è una narrazione della crisi che è completamente diversa dalla nostra. Quando sulla BCE, voglio ricordare una prima pagina dell'Handelsblatt di qualche settimana fa, in cui si diceva la BCE sta distruggendo i fondi pensione tedeschi, cioè i risparmi dei tedeschi, perché i tassi sono molto bassi. Quindi i tedeschi stanno spingendo adesso per alzare i tassi di interesse, che sarebbe una tragedia, mentre invece così insomma, quindi c'è un modo, questo un po' mi angoscia, c'è un ritorno non solo alla cultura e ai valori nazionali, ma anche alle vecchie nemicizie, no? Quelle nemicizie che noi pensavamo appunto di aver seppellito dopo 60 anni dopo la guerra. E invece si tornerà a una sorta di, a volte di alibi, a volte di ritorno, a volte di forse anche appunto arma di disperazione, ma perché è la via più facile probabilmente andare a cercare soluzioni, certo, in questi risentimenti, in queste inimicizie. Ci sono pagine molto brutte, anche io appunto sono stata spesso in piazza ad Atene a seguire le manifestazioni contro l'austerity, e al di là di rivendicazioni che sono anche ragionevoli, vediamo in questi giorni che c'è un dibattito finalmente anche alla Commissione sull'austerity. C'è la consapevolezza che bisogna appunto favorire politiche di crescita, però quando io ho visto la prima volta le immagini di Angela Merkel con i baffini da Hitler, beh, insomma, per me è stata una scossa. Io trovo che questo sia estremamente pericoloso, perché, ripeto, non stiamo parlando di politica, stiamo parlando proprio delle piazze, no? Degli umori delle famose piazze. Abbiamo visto che questa austerity in qualche modo ha anche distrutto il bipolarismo in Europa, cioè in molti paesi non c'è più una contrapposizione tra due partiti. Pensiamo solo al nostro paese. Noi veniamo da un ventennio di bipolarismo imperfetto, no? Però questo terzo polo che si è inserito in questo bipolarismo imperfetto, che è il polo di Grillo, nasce appunto anche dalla ribellione non solo contro la casta, ma contro evidentemente un ordine o una politica che viene percepita come in qualche modo lontana dal... No? E addirittura appunto dannosa per i cittadini, no? Perché l'austerity sappiamo che è notizia di ieri, ci sono 6 milioni di disoccupati in Spagna, abbiamo la disoccupazione giovanile che dall'inizio della crisi è triplicata, cioè insomma sono dati brutti. Scusate, non volevo adesso. È il realismo che tu racconti. E Tone, volevo farti un'ultima domanda per capire cosa significa anche per te raccontare l'Europa. Ho in mente due giorni in cui sono usciti due articoli consecutivamente a tua firma. In un giorno eri a Bruxelles, dove raccontavi gli accordi per la Grecia. Il giorno dopo eri nelle piazze, eri nella piazza di Atene a cercare storie, spesso storie di disperazione. Qual è la chiave per raccontare l'Europa? Cioè, qual è la chiave per legare la strada al palazzo? Ma per me personalmente lo è anzitutto l'amore per un mestiere che purtroppo... lo dico con grande dolore, insomma, è minacciato da tutta una serie di cose che adesso non sarebbe troppo... Quindi la prima cosa è la curiosità. Naturalmente questo è un mestiere narcisistico, no? Non nascondiamoci, però è anche un mestiere dove la curiosità è un traino enorme, e a me, ecco, mi interessa raccontare appunto storie, quindi mi interessa raccontare storie, mi interessa ascoltare, e questo secondo me è fondamentale. Lo è quando per capire un accordo europeo io non guardo solo il documento, io poi chiamo delle persone che reputo, degli economisti, dei politologi, insomma, che mi aiutino a decifrare questi accordi. E il giorno dopo, quando sono in piazza, beh, io cerco di parlare con più gente possibile. Credo sia un po' questo la chiave. Sì, la chiave. Grazie davvero a Tonia Mastroboni, ricordiamo i tuoi appuntamenti. Lavoro, c'è ancora posto per i giovani oggi pomeriggio alle 15 in Sala Lippi, adesso alle 11.30 invece all'Hotel San Gallo. Sì, parliamo di appunto traduzione, di saccheggio delle fonti straniere, di... Okay. Il copia e incolla, insomma. Sì, esatto. Ho capito, ok. Europa e comunicazione ancora qui in questa puntata dell'altra Europa. Fare giornalismo in Europa, magari emigrare per fare questa esperienza. Abbiamo qui due testimonianze, saranno protagonisti anche del panel intitolato Lezione di emigrazione, che sarà alle 11.30 presso la sala del dottorato. Diamo il benvenuto a Chiara Albanese e Alessandro Alviani. Ciao Chiara. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Di cosa Lezione di emigrazione? Qual è la vostra storia? Tu Chiara, dove lavori e come sei arrivata a fare quello che stai facendo? Io scrivo per una rivista finanziaria inglese, seguo il mercato italiano e spagnolo da Londra, siamo un po' corrispondenti all'incontrario. Abito a Londra da 4 anni e collaboro anche da Londra con riviste italiane, quindi ho un po' questo doppio ruolo di giornalista italiana per gli inglesi e giornalista italo-inglese per gli italiani. Ma ti consideri una penna in fuga, cioè ti sei dovuta spostare dall'Italia per poter coronare il tuo sogno, che magari era proprio questa professione per l'appunto? Esattamente, non sono partita con l'idea di essere una penna in fuga, ma oggi, 4 anni dopo, mi ci sento. Questo perché in Inghilterra ho scoperto il rispetto per il lavoro, il rispetto per il giornalismo, pagamenti per articoli pubblicati in 7-8 giorni a confronto dei 7-8 mesi italiani, rispetto per quello che fai nell'avere risposte, magari da caporedattori centrali, maggiore spazio, maggiore interesse per quello che fai, e anche un altro tipo di approccio, in quanto il giornalista in Inghilterra non è percepito un po' come in Italia, come una professione trendy, è considerato un impiegato. Qual è il consiglio che darai oggi al panel, magari ai tanti ragazzi, alle tante ragazze presenti in sala che hanno quello di non avere paura? A Londra il lavoro si trova, magari ci si deve adattare, magari ci si deve specializzare, ma se si parla inglese e si ha la passione per lavorare all'estero, si può andare a Londra, lavorare in un pub 2-3 mesi e iniziare a lavorare come giornalisti, invece della gavetta di 2-3-4 anni che a volte bisogna fare in Italia. Alessandro, invece la tua esperienza, tu dove lavori? Io lavoro a Berlino, sono giornalista freelance, collaboro principalmente con La Stampa, Collaboro anche con redazioni tedesche, occupandomi di Italia, questioni italiane per redazioni tedesche. Sono qui in Italia, tra l'altro, per una serie di ricerche che sto facendo per una radio, per un reportage radiofonico per una radio del circuito radiotelevisivo pubblico tedesco, ARD. E quindi io ho studiato a Perugia. Scienze della comunicazione. Un ritorno a casa. E sono andato via subito dopo la laurea. E quindi ho iniziato nel 2006, inizialmente all'inizio con relazioni, a collaborare con redazioni italiane, e poi pian piano ho costruito una serie di contatti con redazioni tedesche, per cui ora faccio entrambe le cose. Una domanda comune ad entrambi, dal vostro osservatorio, dalla vostra esperienza, dal vostro essere ibridi, che alla fine appunto è un valore aggiunto, una bellissima ricchezza, è più facile o è più difficile raccontare l'Europa? Credo le sfide siano le stesse. La cosa bella del lavorare in Inghilterra, forse questo è diverso rispetto alla Germania, è il fatto che ci si sente in Europa, ma ci si sente anche fuori dall'Europa. Viene dall'isola, si vede l'Europa un po' come una grande massa continentale che si può raccontare con un certo distacco. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno con la crisi dell'euro, gli inglesi si sono sempre sentiti un po' distaccati. Ecco, loro hanno problemi con l'euro, noi con la nostra sterlina in fondo ce la caviamo, al massimo facciamo un referendum e ce ne usciamo da questo pasticcio. Quindi... Beh, è diventato più difficile con la crisi almeno raccontare la Germania, perché sono riemersi tutti i classici cliché sul tedesco brutto, sporco e cattivo. E diventa un po' più complesso anche far capire che non è così, far capire anche le ragioni. È diventato di sicuro più difficile. Di citizen journalism invece si è parlato ieri qui a Perugia, e tra i protagonisti di questo panel c'era Antonio Casilli, che è qua con noi, l'abbiamo già conosciuto all'Altra Europa quando abbiamo parlato della rete e il corpo, no? Il digitale che diventa reale. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao. Anche se mi dicevi prima che non era giusto il titolo, dire avete parlato di giornalismo partecipativo, ma non solo, comunque non è il tuo focus. Beh, diciamo che la conversazione di ieri alla fine ha messo l'accento su un aspetto particolare del citizen journalism, che è quello della precarizzazione dei giornalisti e del tipo di pressione che il giornalismo partecipativo, cioè quello che qualunque cittadino può fare inviando dei microservizi o delle informazioni dalla strada, il tipo di pressione che questi giornalisti esercitano sui giornalisti professionisti. Diciamo che ieri poi alla fine il discorso è stato di dire sì, guardate, è una grandissima opportunità il citizen journalism, ci sono degli esempi splendidi in Europa che sono stati molto importanti per dare un impatto di partecipazione democratica, ma certe volte c'è anche un'utilizzazione un po', diciamo, perversa da parte di grandi piattaforme o di grandi media di questi citizen journalism come fossero quasi un esercito industriale di riserva, per usare una formula cara a Karl Marx. Quindi giustamente per precarizzare i giornalisti, quelli più professionisti, quelli che sono i giornalisti classici. Ciò non di meno abbiamo degli esempi, come dicevo, molto, molto interessanti, ne abbiamo nei paesi che conosco meglio perché ci lavoro, in Francia, in Inghilterra, si parlava di Agora Vox per esempio, che è stato un bel esempio a partire dalla metà degli anni 2000 di media partecipativo francese, media cittadino che giustamente permetteva a chiunque di avere una voce. Oppure in Inghilterra, altro caso che ho studiato, Blotter, che è un esempio di testata giornalistica partecipativa che ha avuto un ruolo importante, migliore come performance della BBC o di altre outlet più diciamo mainstream come Sky per esempio, soprattutto in certi casi dove l'informazione locale era più importante, e questo era il caso dei riots, cioè dei moti di rivolta del 2011, dove questi media cittadini hanno avuto più presenza, più impatto, e soprattutto sono stati anche capaci di meglio rendere la realtà dei quartieri caldi, dei quartieri nei quali scoppiavano queste rivolte. Antonio, tu dove e cosa insegni? Io insegno Digital Humanities in una scuola che si chiama Paritech a Parigi, quindi è una grande école, una università dove si insegna ingegneria. Quindi proprio una contaminazione di saperi. Ma io studio studio e insegno sociologia del web, quindi c'entra con queste cose. Perfetto, vuoi darci il sito di riferimento per conoscere tutti i tuoi lavori, che è molto bello e stimolante? Io ho un blog che si chiama, un blog in multilingue, che si chiama Body Space Society, bodyspacesociety.eu, che giustamente è il EU che sta per Europa. Grazie davvero anche ad Antonio Casilli. Una manciata di minuti ancora per chiudere questa puntata, e lo facciamo come lo facciamo tradizionalmente, nel senso che ci piace affrontare il tema Europa, il concetto Europa, con personalità anche di spicco del nostro panorama culturale. Oggi lo facciamo con uno dei protagonisti del festival, perché sarà qui oggi alle 18:30 a Sala dei Notari, intervistato da Lucia Annunziata su L'uomo e le guerre. Sto parlando dello scrittore Paolo Giordano, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Paolo, scrittore, collaboratore, uomo pensante. Tu Paolo, perché prima di fare lo scrittore, ricordiamoli, comunque uomo di ricerca, e immagino che quindi l'Europa tu l'abbia respirata anche soprattutto forse a livello universitario. Beh, l'ambiente scientifico ha ancora questo enorme privilegio di aprirti davvero un po' le porte, non solo dell'Europa in realtà, ma di collaborazioni internazionali dal principio. Diciamo, non è una cosa che uno si deve conquistare con il tempo, ma è una condizione di partenza quando si comincia a lavorare, ad esempio, nella ricerca in fisica. E in questo, vedi, ci sono sempre molte, è sempre molto contraddittorio quello che viene detto, perché ci lamentiamo del movimento dei nostri cervelli fuori, che in realtà è qualcosa di necessario e strettamente positivo per chi fa ricerca. Il problema vero è che, come dire, non c'è una vera circolazione, ma il movimento è unidirezionale nel nostro caso. Ecco, in questo anno europeo dei cittadini la domanda tormentone che facciamo ogni sabato è questa: per te l'Europa che cos'è? Alla parola Europa qual è la prima suggestione che ti viene in mente? Ma per me è sempre stata una grande possibilità, un grande senso di possibile scelta. E sai, forse vivendo, essendo cresciuto anche a Torino, che è una grande città, per cui ricca di possibilità al suo interno, ricca di scelte, ma comunque una città che è a modo suo un pochino decentrata, in Italia, una città comunque vicina a un confine, ho sempre sentito che l'Europa era davvero lì vicina, cioè oltre le Alpi, quindi devo dire, fin dal principio, fin da quando ero abbastanza giovane, mi sono sempre visto come europeo, come una persona che in fondo poteva tranquillamente circolare in tutta l'Europa. Grazie a Paolo, facciamo nostra questa tua definizione, cioè l'Europa come possibilità, che ci sembra veramente la sintesi migliore con la quale chiudere questa puntata. Grazie Paolo, 18:30 Sala dei Notari, L'uomo e le guerre con Lucia Annunziata. Ciao e buon sabato, e questo ciao e questo grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa: Margherita Ina, Miriam Lucchetti, Valeria Bernardi regia, Elena Ligius, Katia Marinelli e Davide Ciocia. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie agli ospiti che hanno partecipato. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.